Stiamo discutendo forse una seconda legge identitaria per questa regione. Ovviamente identitaria perché è la prima legge d'Italia che viene definita da una regione per attrarre, trattenere, valorizzare talenti. Stiamo parlando di una legge per attrarre talenti sia nel sistema pubblico che nel sistema privato. Può essere che vogliamo attrarre nella sanità, come attrarre in un processo produttivo, come attrarre dentro l'università, come attrarre dentro a un laboratorio di ricerca. Quindi siamo trasversali, non è solo per qualcuno. L'attrazione dei talenti per noi è un'idea di sistema. Abbiamo ovviamente strutturato sia il finanziamento nel tempo sia nella sua struttura operativa, quindi utilizziamo risorse dirette dal bilancio regionale, risorse dal FES, risorse dall'FSE, ma essendo un fatto strutturale i bisogni vanno anche accompagnati anche strada facendo rispetto, se c'è bisogno ovviamente faremo anche operazioni di supporto aggiuntive finanziarie. Perché questa legge? Perché siamo un paese a demografia piatta e non possiamo permetterci noi di perdere i nostri giovani che escono dal sistema dell'istruzione e se ne vanno di là dalla frontiera. Il tema non è che vanno di là, è che non ritornano più. E quindi non è facile dire ritornate, bisogna dirgli come riusciamo a farle ritornare e dargli un percorso anche lì strutturale. Non si fanno ritornare teste se li metti dentro a un percorso di precarietà e quindi se ne vanno per la precarietà. Noi dobbiamo riportarli dentro a un sistema strutturale condiviso che abbia un senso per loro ritornare nel nostro paese e addirittura non andare oltre confine, anche trattenere. Non a caso la legge va a dire attrarre talenti, trattenere talenti. E siamo demografia piatta e anche in questa regione ci fa dire che si regge perché abbiamo migrazioni in questa regione che entrano nel nostro sistema pubblico e privato, quindi regge la nostra demografia perché già abbiamo emigrazione delle regioni del sud, da ragazzi e ragazze che arrivano dal mondo, per fortuna siamo una regione così, ma non è sufficiente ed è per questo che facciamo una legge, che sappiamo che nel nostro futuro questo sistema di demografia piatta, se resta così, non è sufficiente a far reggere un grande sistema manifatturiero, come è la nostra regione, io direi anche il paese, a quei livelli. Faremo accordi di partenariato con istituzioni europee internazionali, abbiamo già contatti e relazioni, abbiamo già fatto anche sperimentazioni dedicate in quella direzione. Faremo progetti con università e centri di ricerca, già noi abbiamo università che hanno una crescita di internazionalizzazione importante, non solo abbiamo bisogno di trattenere qui quelli che sono dentro le nostre università, ma perché no attrarre anche nuovi talenti che entrano dentro le nostre università. Supporteremo centri operativi e coordinati nelle nostre città, abbiamo già definito con alcune città capoluogo, c'è un'esperienza che è già partita ad esempio con la città metropolitana, città di Bologna, centri dedicati in ogni città in coordinamento in modo di avere un feedback delle informazioni e creeremo una rete, un network dedicato, creeremo e finanzieremo un sistema, andremo a incrementare i nostri assegni di dottorato, creeremo percorsi di agevolazione di sostegno alla residenzialità, case, foresterie, perché il tema della casa diventa uno dei vincoli prioritari e se ne vanno anche perché non riescono ad avere la possibilità di avere un futuro a partire da un'abitazione, dalla loro autonomia, dalla riuscire a progettare il loro futuro. Dobbiamo comunque garantire a queste teste una mobilità internazionale, hanno bisogno questi talenti di relazionarsi a livello internazionale, ma devono essere avere una mobilità, un riconoscimento di questa mobilità, ma sapere che c'è l'ancoraggio nella nostra regione. E poi servizi dedicati per conciliare tempi di vita e di lavoro, faremo master dedicati di formazione dedicata perché dobbiamo mettere in sicurezza anche le loro teste dal punto di vista della loro professionalità e poi andremo a definire servizi offerti ai propri familiari per l'accesso ai servizi educativi, faremo protocolli dedicati con le amministrazioni competenti per non perdere le agevolazioni fiscali a supporto di questa legge, definiremo un manifesto per l'attrazione di talenti nelle filiere. Lo faremo insieme al sistema delle imprese, verrà istituito un servizio di informazione e comunicazione dedicato, andremo a fare operazione anche per attrarre i soggetti che hanno idee di incubazione, idee imprenditoriali, quindi non soltanto talenti nel processo produttivo ma anche soggetti che hanno start-up che vogliono fare investimenti innovativi nel nostro territorio e andremo a costituire un comitato permanente a supporto, andremo a costituire anche un osservatorio e quindi con oggi noi avviamo abbiamo quello che di dotarci di una legge, non soltanto dire come, ma avere uno strumento dedicato per farlo. Vuol dire un investimento dedicato, perché io penso che lì si gioca anche una partita della tenuta, della qualità dell'innovazione in questa regione. Se questa regione è diventata un campus di innovazione trasversale, senza teste quell'innovazione non regge, declina.